Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti anche questa ultima puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon. Dopo un anno accademico iniziato già ad ottobre, dove abbiamo cercato e ricercato situazioni, personaggi, luoghi, storie da raccontare e da riportarvi, alla fine di questo lungo anno vissuto rodarianamente, ci rilassiamo nell'ultima puntata proprio con le filastrocche, quelle di Rodari e D'Argilli, che parlano ai bambini, ma perché gli adulti sentano. Quindi, cominciando con la festa di Argilli e proseguendo con le altre filastrocche di Rodari, noi ci congediamo per quest'anno. Ciao a tutti e a risentirci d'ottobre. La festa. Una domenica mattina la gente si svegliò e non riconobbe più il paese nel quale viveva. Erano spariti tutti i colori. E il mondo senza colori sfido chiunque a immaginarselo. Palazzi, auto, strade, alberi erano come vetro trasparente. Per giunta i colori erano spariti anche dai visi, dai capelli, dagli abiti. La gente si guardava sgomenta, i capelli sembravano fili d'aria, la pelle cera bianchissima. E tutti i vestiti avevano lo stesso squallido aspetto incolore. La città ormai irriconoscibile sembrava popolata di fantasmi. Per giunta muti, perché per l'avvilimento nessuno riusciva a parlare. Si udirono solo dei bambini gridare spaventati: «Che succede? La fine del mondo!» Invece si trattava di una festa. Lo scoprirono però soltanto Filippo e Nella, che quella domenica si erano dati appuntamento per andare a giocare in una valletta appena fuori della città. Tristi e scoloriti vi si avviarono ugualmente. La strada senza colori era quasi invisibile. Gli alberi sembravano di ghiaccio, l'erba dei prati fili di cristallo. Ma arrivati alla valletta rimasero abbagliati. Tutti i colori spariti dalla città erano radunati là. Era uno spettacolo fantastico. Lasciati gli oggetti, i colori non avevano forma e come onde rosse, gialle, verdi, marroni correvano e si intrecciavano sul prato. Filippo e Nella li guardavano sbalorditi, non immaginando che si erano presi un giorno di vacanza per fare una festa. Tutti infatti si divertivano a ballare e a giocare. A vedere tanta allegria i due ragazzi si fecero coraggio e cominciarono anch'essi a giocare. Prese a volo manciate di colore le modellavano come la plastilina. Facevano ometti gialli e rossi, cavalli a strisce blu, casette azzurre col tetto verde, auto variopinte degne di Arlecchino. Quando si stancavano delle costruzioni, bastava soffiarci sopra per farle svanire. Inventarono tanti altri giochi, lanciarsi palle di rosso, rotolarsi nel blu come fosse il mare. Giocare a nascondiglio nel verde di giungle equatoriali, ma il gioco che li divertì di più fu spalmarseli addosso. Era come mettersi una cipria che faceva diventare della tinta che si voleva. «Sono un negretto!» gridava Filippo che si era fatto tutto nero. «Io una cinesina!» gridava Nella tutta gialla. «E io un verdolino!» Soffiato via il nero, Filippo si era fatto tutto verde. Poi si colorarono i vestiti a strisce rosse e blu, i capelli di celeste, le mani di viola. Non si erano mai divertiti tanto. Verso sera, accortisi che si era fatto tardi, corsero a casa, ansiosi di raccontare ai genitori la loro fantastica scoperta. Ma arrivati in città, la ritrovarono tutta colorata. I colori, finita la festa, li avevano preceduti ed erano tornati ai loro posti. Così, quando Filippo e Nella spiegarono a cosa era dovuto quel giorno di scolorimento, non furono creduti. anche perché la televisione aveva annunciato che doveva essersi trattato dell'effetto di un'insolita eclisse solare e la gente si era ormai tranquillizzata. Invano Filippo e Lella insistettero, furono presi per bugiardi, ma loro sapevano di non aver sognato e da quel giorno tornarono spesso alla Valletta. Quella meraviglia però non la ritrovarono più. I colori si potevano infatti concedere una vacanza solo ogni 100 anni. Parole. Abbiamo parole per vendere, parole per comprare, parole per fare parole, ma ci servono parole per pensare. Abbiamo parole per uccidere, parole per dormire, parole per fare il solletico, ma ci servono parole per amare. Abbiamo le macchine per scrivere le parole, dittafoni, magnetofoni, microfoni, telefoni. Abbiamo parole per fare rumore, parole per parlare, non ne abbiamo più. Thank you. i passeri sul tetto. Ho udito sul tetto i passeri sussurrare, bisbigliare. Buoni, buoni questi alberi per potercisi riposare. Un bel pensiero gli uomini hanno avuto, veramente, piantandoli sulle tegole, lontani dalla gente. Sui terrazzi pacifici, lontani dai bambini, ci tendono trappole e ci sparano a pallini. Ne hanno fatto un magnifico bosco, con tanti rametti. C'è posto per tanti passeri. Non ci si sta mai stretti. Però non se ne offendano. La loro buona intenzione, guardate come la sciupano, quelle care persone. Alberi senza figlie, d'inverno ed estate, sempre uguali, come scheletri, con le braccia spalancate. Avremmo dovuto dirglielo, che ci piacevano tanto anche quei vecchi platani del viale qui accanto. È vero, ci passavano ogni mattina i monelli e con la fionda tiravano a noi, poveri uccelli. Han creduto, abbattendoli, di farci cosa gradita. S'han regalato in cambio questa selva irrigidita. Si chiamano antenne, dicono, ma nel cambio noi ci si perde. E poi almeno le avessero dipinte di verde. Am I wrong? 'Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? 'Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all, y'all remember me? Y'all, y'all remember me? Last chance, fancy pants. Oh, very well. Am I wrong? 'Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? 'Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all, y'all remember me? I like the way you die, boy. Am I wrong? 'Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? 'Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all, y'all remember me? I like the way you die, boy. Only wish to breed, I explode into a million seeds. Y'all remember me? Legendary, live eternally. Bury me in pieces 'cause they fear reincarnation. Niggas screaming peace 'cause they fear when my squad face them. Take them to places, take the face, then erase them and break them. Murder motherfuckers out of rate and quickening base. Blast me, but never ask me to live a lie. Am I wrong? 'Cause I wanna get it on till I die. Now even if you blind, you can still see my prophecy. My destiny to overthrow those on top of me. Bitch made niggas in that bullshit you going through. Outlaws, busting, busting, we untouchable. Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? 'Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all, y'all remember me? I like the way you die, boy. Am I wrong? 'Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? 'Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all, y'all remember me? I gatti in gelateria. I gatti al bar gelateria ci vanno le sere d'agosto, sempre facendo finta di essere in un altro posto. Così i camerieri non possono cacciarli via, perché direbbero: ma guarda, credevamo fosse la cartoleria, dobbiamo comprare un temperino per rifare la punta agli artigli. Con prudenza si aggirano fra i piedi dei tavolini. Non danno noia ai bambini, non rompono le calze alle signore, perché d'estate le signore non portano calze. Stanno lì con pazienza e con gli occhi semichiusi, ma se da un cono troppo pieno casca un poco di panna montata o da una coppa tenuta di traverso sgocciola fragola, crema, cioccolato, allora li si vede balzare come un sol gatto a leccare il selciato. Ma non potete sentire che fanno le fusa, perché passa una motocicletta rombando a tutto gas. Gustavo, Gustavo Gatto artista, è un doppio pianista. Difatti suona il piano a quattro zampe, mentre perfino Chopin lo suonava soltanto con due mani. Per un bel piano a coda, niente di più adatto che un pianista con la coda naturale, che sta molto meglio di quella del frac. Gustavo danza con eleganza sui tasti neri, sui tasti bianchi, dello spartito e sui candelieri. Che anima sensibile! La sera Gustavo si suona la ninna nanna e si addormenta sulla tastiera. Il gatto volante. Arturo Gatto Volante va in un'ora da Roma a Torino. Sul reattore, dentro un cestino. Gli piace guardare dal finestrino, mangiare un panino, suonare il violino, parlare di topi col vicino. Da grande farà il pilota, guidando con la coda. Il gatto Carlo Magno. Avevamo un gatto di nome Carlo Magno. Suonava il flauto, sputava le tagliatelle. Viaggiava moltissimo in punta di piedi, tenendosi a distanza dalla vasca da bagno. Bella bestia, dal capo alla coda, fin dove la coda finiva. Non rivolgeva la parola agli estranei. Liberamente andava e veniva. Liberamente se ne andò del tutto, senza dare le dimissioni. Scomparve, lasciandoci soltanto il suo nome. Da chiamare, da chiamare. Non ci fece sapere perché non voleva tornare. Ogni tanto arrivava una cartolina, ma non era lui che ci scriveva. Suonava il telefono, ma non era Carlo Magno. Era uno che aveva sbagliato numero e non diceva nemmeno scusa, quel maleducato. Il gatto Agostino. Agostino Gatto inesperto mise una zampa nella nafta e subito per pulirla cominciò a leccarla. Infezione, paralisi. Il veterinario lo portò via per darlo allo spazzino. Morì per amore di pulizia. Agostino, Agostino, anima nobile come nessuna. Se avremo un altro gatto, gli daremo il tuo nome. Il nome del gatto. Una bambina ha un gatto. Gli cambia il nome tutti i giorni. Il gatto, confuso, si volta a tutti i nomi. Poi a tutte le parole, anche alla parola mascalzone, che gli resta. Il solo mascalzone simpatico del mondo. Ritratto del gatto. Il gatto non è amico di nessuno. Entra, mangia, si stira e torna via. Crede che la casa sia un'osteria. Non fa festa al padrone, non lo accompagna a spasso, non ti riporta il sasso che tu getti lontano. Non ti viene a leccare la mano, come fa il cane con quegli occhi buoni. E quando miagola, pare che stia raccontando una bugia. The talk of the town with the restless guy. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun, he's the top of the West. Always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. Pull him up. seen him, you're so gone, boy. When you've seen him, you're so gone. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with this cult, 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around. When you've seen him, he's a gone boy. When you've seen him, he's gone. Matrimonio. Il ragionier Pasquizio ha sposato una gallina. La cerimonia è avvenuta alle 10 ieri mattina. C'è stato un solo istante d'imbarazzo allorché lo sposo ha detto sì e la sposa coccodè. Ma che entusiasmo poi quando, a mezzo il rinfresco, la sposina si è appartata e ha fatto un nuovo fresco. La rana e il bue. Una rana voleva diventare grossa come il bue e tanto si gonfiò che alla fine scoppiò. Piangeva il bue commosso. Non c'ho colpa se sono così grosso. Il bue e la rana. La rana voleva diventare grossa come il bue. Si comincia a gonfiare e il bue si spaventa, ha paura che scoppi. Allora diventa lui, piccolo piccolo, per farla contenta. E con le musiche di Ennio Morricone ci congediamo per quest'anno, andiamo un po' in vacanza, tiriamo il fiato, ma per ritrovarci a ottobre